Today's budget is about reforming the nation's economy so that we have enduring growth and jobs in the future. La manovra punta a riformare l'economia del paese e assicurare crescita e posti di lavoro. Vogliamo fare il possibile per aiutare le famiglie contro il caro vita e il rialzo del costo del petrolio. Sappiamo bene quanto siano difficili oggi le condizioni economiche di molti. Ci siamo messi in cammino e dal soccorso siamo arrivati alla riforma, dalla riforma alla guarigione. E questo è stato possibile grazie anche alle difficili scelte che abbiamo intrapreso. Decisioni che hanno portato alla stabilizzazione economica. E senza quest'ultima non ci può essere una crescita stabile, sostenibile. E tantomeno non si possono creare nuovi posti di lavoro. Senza stabilità il governo deve tornare a rivolgersi ai cittadini e chiedere più tasse. Noi non dobbiamo fare questo oggi. Questa infatti non è una manovra che comporterà un aumento delle tasse. Si basa sui soldi, darà slancio alle imprese e supporterà l'export e gli investimenti. È un piano per creare, non per rimediare. A budget for making things, not for making things up.